là, chiudo, amaro come me lo. Alfra. Sì. Va, va, va. Abbassa fra, abbassa fra. Sentiti, auguroni a tutte e due. E grazie a ricambiarti, aspetta a vedere se ti sei sentato, che il mezzogiorno, ma comunque non fa niente. Ma lo senti, no? Non lo senti. Sì, adesso l'ho sentito parlare. Ciao Giovanni, però non sei da casa comunque. Ecco. Ammaggia la ragazza. Infatti, non sono a casa, infatti. Vini, stavo spazzolando, vi ho sentito. Sono in casa di un amico, per cui vi risaluto, vai. Buon proseguimento e tanti auguroni per il buon Natale a voi e ai vostri familiari. Sto chiedendo fra, ciao Vanni, riprendi tu dai. Ciao, ricambiarti, è un felice anno nuovo, quelli di Natale, vabbè, stanotte facciamo balduia, ma poi ci sentiamo, spero almeno lì, per gli auguri capodanno. Oggi è sabato, però amplificato perché ne sai, ma con la capo. Vabbè dai, ciao Giovanni, allora, tanti auguri, buon proseguo di serata, buon tutto. Ciao, ci ascoltiamo tra le prossime. Avanti chi vuole entrare. Positivo, Massimiliano Buntonte, con la buonasera che saluta Gian Maria che sta andando via. E tanti auguri di buon Natale, ciao Franco, ciao Vanino, ben ascoltati. Ok, scusa, ciao Massimiliano, ricambiato tutti, dai, a te di famiglia. Saluto tanto quella persona, ciao! Ciao, ciao Gian Maria, ce l'ha fatto, non c'è problema, dai. Buona serata, buona continuazione. Avanti Franco, passa un po' la radio. Aspetta, devo cambiare il microfono, questo lo stavo solo provando. Oggi questo passaggio va bene. Buonasera, ben ascoltato. Ciao Vanino, anche a te, buonasera. Ricambiati, mi auguro. Sta provando, Franco. Il microfono che non c'era stato, non c'era stato. Però c'era anche benissimo, ma non era in me. Finalmente ha capito che non era la radio, ma era la radio. Vabbè, meglio tardi che mai ci si arriva a questo l'opera. Comunque, cosa anche gli altri. Va comunque, mi sono usato la radio. È un bel film, comunque, diciamo che non è... È esagerato, ma va bene, non mi sono... Non c'è un problema. È così. Io invece non sto usando la radio normale, là. Niente di accettare. Capo Vanni, adesso va bene, quello là era l'altro microfono, e questo bene, bene lo senti. Adesso va vicino, non lo fa, siamo troppo vicino, e quindi bisogna mettere un minuto che la sua cosa, come fa un altro, va bene, vanno bene tutti. Allora, frate, lo dico io cosa c'ho col microfono. La radio è molto spinta, è molto presente, però c'hai molti acuti, c'hai molti, molti, molti acuti. Se la passi appena appena, magari la radio si migliora un pochino. Ma questo, ma sveglia, era come ieri, cioè, come l'abbiamo trattato ieri, te lo ricordi? Già me lo ricordo, ma magari, cosa ne so, niente, ti sto ascoltando così, ho appena acceso, magari questo è freddo ancora, non so come ti dica. Però passare un'idea. Ma sai cos'è che tu senti questa colorazione, capisci? La cosa tu che ti ascolta, ma è tutta un'altra cosa, poi capisci, no? E quella è la differenza, sentendo questa e sentendo l'altra conosci questi, diciamo, quelli acuti da lui, però è normale, se senti un altro con una radio così come quella di Franco, vabbè, sono più o meno regolari, il problema è che non c'è una banda molto larga, quelle lì, purtroppo è così. Andare Franco, hai capito? Io mi ho finito tutto, però sono sceso più approvato, ma niente da fare. Ho avuto dei direttori, non so abbiamo mai puntato bene, mamma mia, domani, anzi, martedì o mercoledì non lo faccio. Ecco, ma c'è così, comunque, ecco, ci sono anche le cose così. Ecco, se l'hai tirata ben su, io non credo che ci veda qua. Già, ci prendeva il canottiere, ci vedeva prima, figurati adesso. Ciao! Tutto oltre, Franco, che ti ha chiesto di presentare il tuo Io so la radio che sto usando, quella celeste. Se non sei a casa o sei a casa? No, sono con il vestito. Poi infatti ci vuole perché vai da 7 a picchi di 9:10. Va bene, avanti Franco. Sì, capo, giro Giampaolo, io non sento in mezzo a quel reme, lo sento. Infatti anche io lo sento a picchi da 7 a 9:10, lo sento. Però molto basso. Va bene, mi aspetta, capito, mi aspetta. Però io già lo sento abbastanza bene, là, non c'è problema, anche perché il portatore sono morto. Ma io non ti ho mai chiesto un segnale forse lì da te, Fra, come sta andando? Guarda, sì, 9:30 dB anche. Addirittura. Allora, io sto andando con 10 watt di portata bianca intorno ai 40-50 mW. Così molto ti aumenta, caspita. No, io sto andando, guarda, sono 8 watt sono andato. E aumenta così tanto, sì. Anche di più va questa. Anche di più, abbiamo messo i finali nuovi e la voce è bella. Capo, no, questo non lo vedo sempre. Ma adesso come va? Guardate, è tarato così, è tarato, probabilmente. E di più non esce, dovrebbe essere tarato per 10 watt, però non me li dà. Adesso meglio va, guarda un po', capo. Ehi, Giampa, adesso va meglio, ma io già ti ascoltavo bene. Se sei salito a 9:15, radio 5 perfetta. Adesso ho toccato qualche cosa, ho messo in diretta a lui. Però sta andando bene, oh Giampa, perfetto, ti ascolto. No, qua in poche parole mi è stato dato uno smalto di corrente, capito Fra, e mi ha fatto andare i finali in manovra. Però già i finali sicuramente questa radio erano già sfruttati e adesso con questi nuovi non c'è paragone, là. Ti ripeto, con 10 watt di portata bianca solleva i picchi oltre 50. Questo non è stato mai toccato il finale, questo qua è un apparato vecchio e probabilmente sono ben sfruttato. Adesso ascolto bene anche io, Oh Giampaolo, non attaccare il lineare, ce l'ho caputo la moto, un secondino di bianco, mi devo allontanare dalla radio, ma riprendo subito, mi manca un ascolto, però mi devo allontanare dalla radio, riprendi già qua. Ok, ma sono di fronte dei mattoni di pubblicità. Dove sei? Yeah. questo anno, tu mi hai detto, per venire a lanciare le macchinette in giro, e io per non sapere le giri di frena, cioè mai tanto se ci possono bene, e mai ci tocca la mano del culo. Che show che è, per la miseria c'è che è, eh? Macchinetta che è, pericolosa quella dentro casa, eh? E per non andare bene, stavo per cominciare a prendermi, no? Tutto quanto, alla grande, e stavo a fronte, non lo fa molto male, allora. Una vittima, una volta, ho detto, garage, ma io, ti chiedo io, ma va bene, chiedi tu. Io non vuoi dire che sono originato, ma non voglio dire che sono capo, perché comunque mi fa scuola e hai fatto in capita, e mi ha fatto la scuola torre. Ma non è, dopo giorno ti vuoi ammazzare? Fatti la gita, ascolta papo, se mi vuoi ammazzare, fammi la pistola, eh. Pericolo, eh. Sganciano il lineare, sganciano. c'è radio dati 40 watt, cosa devi fare il lineare? Mettilo, stacca il lineare, mettici il pomello, mettilo verso le 9, le 10. Molto meglio, già fa, molto meglio, la radio si è sollevata parecchio, con te mi fa. Ma sei uscito fra. Fra, non sei uscito, eh? Yeah, but abbastanza buono, capito? Non è male. No, non ce l'ho sottonato, bambini. Allora, il 260 ce l'ho a due staccette, neanche a metà, con due stacche. Il 540 ce l'ho una stacca più di metà, il 1000 ce l'ho al massimo e il 2000 me li ho fatto abbassare di tre stacche. Vabbè, forse magari anche la modulazione mia, la voce mia, buh. No, ma adesso va bene, capito? Va bene, vibra meno la colonia, nel senso che adesso invece è mai chiara. Prima invece avevi questa sensazione, la senti adesso come la mia modulazione. Invece così, e poi bisogna essere qua quando uno parli vicino al microfono, capito? Questo fatto di rimbombare così la modulazione. Positivo, vabbè, rendi conto, io parlo col braccio tutto disteso, quindi dal microfono sarà una cinquantina, 60 centimetri, capito? Più o meno. Perché se mi avvicino così, non va bene, quindi mi devo allontanare. Va bene, ok. Franco? Venga, vedi, vedi la differenza. O non riescono a capire i bassi, gli acuti e tutto quanto, noi non riusciamo, basta che riesca bene, non ce ne frega niente. E a parte te lo mettere, se non spugna sopra il tuo microfono, vedi che ti toglie un po' di acuti, capito, un po' di niente. Metti di uno straccio sopra. Ecco, infatti, con lo sono abbastanza di provare a prendere il antisoffio, a vedere, straccio, le sondaggi in olio. Un paladrudio. Mi senti io, vedete, mi chiamo la bugiardo. Un canavazzo. Vedi a vedere così, com'è? Vai, devo. Ehi, capo, guarda. Adesso gli ho messo, vabbè, ho fatto l'ettino degli occhiali. Ma infatti, vedi che taglia gli acuti. È migliore così. È migliore così. Insomma, a me piace più come la prima. Confermo. Così dai. Anche io. E così è più presente la radio, o fra. Mi piace di più la verità. Ehi, capo, dai. Sto parlando lontano lo stesso io. Comunque, già c'è già il cotone dentro, c'è. E ora ponemi un fuoco di benzina e un lumino e fai da cendino. Assorbente di lui. Un caso da gaffo. Ah, fra. Via. Un assorbente è buono. Ma che sia voluto per l'azione non possiamo. Vabbè. Signori, Silvestro, dove sei? Positivo il capo di Roggero. Ok. Va bene. Manni! Via. Allora vuole questo capo, non ce lo butto via. Ma che siamo qua? Quello che c'era nel MP4. No, arriva qua. Insomma, mi sei interrotto, sì. Ti do un video, mi devo dire dove si deve applicare. Non hai detto che fai la gioia. No, ti preoccupare. Non c'è nessuno che mi segnala questo. Che bello, non volevo, l'ho già comprato da poco. Avevo comprato. Diciamo che la radio rimane invariata, per come ti ascolto io, nella posizione dove sono io ti ascolto invariato. Il segnale è calato un pochino, ma non più di tanto, se no a picchi di 15 va bene. No, non ho fatto niente, perché devo spegnere e poi riaccendere. E adesso è in per quella radio il microfono lo devi sostituire, non va bene. Te l'ho già detto, ci vuole, per quelle per radio così modificate ci vuole un CTE. Metto il buco un CTE, oh ya, perché già ti aggiungete a fare il microfono, poi da chiamare. Vabbè, ok, comunque niente, adesso ho levato quella modifica là, quello lo leggo, e quindi giusto che tiro il promedio così. Signore buono? Positivo, il segnale è buono, va bene. Chi è che vuole entrare? Buonasera. Andato 3-1 con l'abortante. Chi è che vuole entrare? Che sono a casa e non devo prendere la mano. macchina. Ok, vai, ciao Vanni, buona serata e buon divertimento, tanti auguri se non ci sentiamo. E alle prossime, avanti qua. Via. Ciao Vanni, dai, tanti auguri se non ci sentiamo, vedi verde che bevi poco. Se fai, guarda, mi manetta, mi raccomando, mi chiamo con ogni dito tu. No, mi posso imparare, vai, devo andare, tra poco devo fare le mie pratiche, devo fare la roba, e poi rimango io. Vabbè, là, se ti chiede la porto via. Vuole vedere se sono tutto rifasciato. Fa tutto a posto e anche la vita. No, ne ho messo un altro, ne ho altri due, non è un problema. Ma adesso quando ho tempo me lo rifatto, per il momento va bene, adesso sono studente. Un travaglio non ti dico, perché l'ho anche l'antenna se la vedi ho dovuto mettere i tiranti, no? Sia da tipo robot, perché non devono oscillare i radianti e dei 40, quindi non se ne devono spostare. E vanno contro vent'anni, no? Ti dico, oh via dalla giura, oh via dalla giura, ma... Che cazzo, io non è che aiutare che potevo, sono arrivato stamattina alle 6:30 e poi mi sono bisogno da mezzo lì. Ciao Gianfranco, a te buona serata, buona continuazione di lunedì, non di sabato. Ci sentiamo alle prossime, ci sentiamo, ciao Gianfranco. Ciao Gianpaolo, ce ne ascoltiamo per le prossime, ricordati una cosa, che quella moto c'ha tre ruote. Il problema non è guidare la luce in gusto, il problema è la patente, già qua. Che devi fare, ma Adesso però me ne viene un mezzo a vedere come te. Oi, oi, sì, vabbè, dai. Se mi hanno fatto adesso, ma lascia di dare, vedi che ci riesci più a prenderlo. Se te la prendono a riprenderla è un casino vero, perché è una più delle gana di studiare, ma manco per sogno, però se ti serve la riprendere per forza obbligatorio, capito, quindi vabbè, tutto lì, io mi sto cucinando il mezzagnello, gli ha dato un minuto qua per tenga, mi dice a me dire, mi pare non va a arrivare, saluto. Ma che vale, guarda, così, ancora. Mi è andata, vai da vice cotrubito, la saggia. Cotrubito e la saggia, la buia, la vini, la grande cotrubito, nuca. Positivo, perché c'è, guarda, c'è il barbecue, sta andando, con lo stile c'è mezzo maglialetto. Sto facendo l'agnello, diciamo, no? Anda bene. Fai qualche anno fa me l'avevano preso del tutto a me la patente per un'incidenza stradale, non gli ho fatto un cavolo, perché ho pagato una multa e mi hanno ritirato la patente, questa della stradale. E ho dovuto fare la revisione, E gli ho dato tre buste, non vedo riuscito, all'ultimo mi hanno aggiornato un poco, come me l'hanno data. Problema, se fa patente, guarda, è un casino. Io c'ho il mio vicino che ha avuto un incidente da poco e l'ha fermo al semaforo, l'hanno tamponato. E in poche parole, questo ragazzo prima di ritornare a casa, all'ora di pranzo, è passato e ci ha bevuto una birra insieme a un altro amico, una 020. Ci ha bevuto questa birretta, l'ha fermo al semaforo, l'hanno tamponato, è arrivato alla stradale e il chilometro tutti e due, secondo loro, lui è ubriaco ed era fermo al semaforo, una 020, mi offra una 020, ho ritirato la patente per si vince. Ci sono che fa una 020 di cagata, è un casino nero, quindi questa è una legge del cavolo proprio, dai, fa non di altro, è una legge del cavolo, perché io non dico uno che si beve un bicchiere, ma prendi quella gente che ubriaca veramente, che non riesce manco a guidare, chi si gioca da più parte ne danno? Vabbè, ma la legge non la mette in danno, capito, Fra? Anche, vedi, per chi ha la patente superiore, no? Ti faccio un esempio, la tolleranza deve essere zero, ma se ti dovesse succedere un incidente con la macchina, quando tu c'hai le patenti superiori, te la prendono tutte, sia dalla B e sia sulle superiori. Capito, ma se stai facendo un CQC che le patenti sono separate, cioè ti succede un incidente per esempio con la macchina, ritirami la B e le C e la M la lasci per lavorare, no? Questo CQC a cosa si va a fare allora? Invece te le tirano tutto, te le tirano. Quello è sbagliato. Prima invece cosa succedeva? Allora, prima c'erano, ti ricordi quando c'erano le patenti agricole separate? Sì, ce l'ho avuto anch'io. Io mi ricordo che mio fratello ce l'aveva, no? Avevano avuto un incidente, gli avevano ritirato la patente, gli avevano portato via, però l'agricola gli avevano lasciata, perché lui lavorava con quello, capito? Vabbè, certo, ma anche per chi fa il nostro lavoro così, cioè tu stai pagando la patente più il CQC, cos'è il CQC? Che ti separa le patenti, giusto? Ecco, allora cosa non stai pagando a fare tu quando mi fermi? Disoccupato, un esempio, ti bevi un bicchiere di vino e sei fuori completamente, sia con la B sia con la C. Però tu quando mi fermi me ne prendi tutte quante le patenti. Cioè se mi fermi con la macchina me ne prendi quella della macchina, se mi fermi con il camion me ne tiri quelle superiori. Non è che cosa ha fatto tu a fare oggi con C? Capo, che quello non lo so, perché io ce l'ho messo, non lo so cosa. Non so come cosa vuol dire CQC. CQC ti separa le patenti, capito? La B, la C, la D, la E, la DE. il K, capito? Sono tutte le patenti tutte separate. E il K, aspetta. E invece facciamo il contrario. 2500 euro di CQC, eh? Immaginaci. Lo stato. Stato con lui è severo, con loro invece lasciano correre tutto, si prendono tutto, non solo di quello che si prendono, che gli tocca, rubano anche, bastardi. Poi lascia perdere cosa decidi di fare. Vabbè, va. Casino è, però sono leggi di merda secondo me, perché cazzo, non credo che se tu vai con un amico in un bar e ti bevi una birra e due, cazzo, ti metti in macchina, ti fermi, ti apri la patente, cazzo, ma l'andata di birra non sei glutuno. Sì, non sono glutuno, che aspettate, se mi cosa andate di birra, allora mi come la città mizzi. Questa è una legge sbagliata, è sbagliatissima. Sì, non devi superare quel tipo di tasso alcolico, capito? Adesso con la B, nominalmente un'antusia, mi sembra che sia 003, una cosa del genere, o 005, blu. Bisogna la B, quella buchetta. Ma molte se la buchetta è saggiata, è fatta tipo bucciarino, casino mi sa. Buonasera. Buonasera anche a voi. No, figura, la bocchetta tradizionale, no a forma di truccia. Ciao Franco. Ciao Sandro, mi ha ascoltato. E non ti preoccupare, sa, adesso le forchette le fanno senza le corna, in modo che non riesca a prendere più niente. Ehi, vabbè, dai, comunque. E a fine dei conti bisogna regolarsi, dai. Se non bisogna avere sorprese, bisogna un attimino moderare. Ecco, già è vero, moderare. Bisogna proprio moderare il bere. Va bene, dai, niente di particolare. Avanti, Massimilia. Positivo, ciao, ben ascoltato, buonasera, ben entrato. E cosa devi moderare? Ma scusate, se ci troviamo io e tu, ci beviamo una birra assieme. Cazzo, sono due date a capo lì. Sono due bicchieri a testa, 0,20. Cosa più moderato di così? Ti fai mettere per la patente, cazzo, quello lì, non c'è moderato. Però, secondo la legge, con un bicchiere di birra tu sei ubriaco. Ecco. È così, loro dicono che siamo ubriachi, ma non è così, però lei lo sa. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, buonasera, ciao Claudio, avanti. Buonasera. Ma ci vediamo, fatto quella fa. No, non ho fatto, ho chiamato, mi ha detto che facciamo tutto dopo le feste, va. Vabbè, ma ci sentiamo. Buon progetto, sto facendo cose. Grappa, ciao Cla, buonasera. E buona continuazione, tanti auguri, se non rientri ci sentiamo le prossime. Ma ti sa. Va, Sandro si è sentato. Ciao Claudio, tanti auguri se non ci sentiamo, buon proseguo di serata. Ciao. Grazie anche a voi, anche a voi. Aspetta un attimino, lo guardo l'agnello, fra, un secondo. Ecco, Sandro! Almeno ancora 10 minuti da parte e poi lo giriamo, no? Ho già visto un ragnone che per andare, ho visto, dato lo va a ridere il casino. Avvisami, un bucio di vino che avviraggio. Non mi piace la modulazione, ma si vede essere tutto impastato. Me l'ha fatta fare così, ho messo i 2000, ho passato, mi ha detto che c'erano molto più bassi, ma non ho fatto niente. Per questo mi stanno suonando le campanelle. Beh, signor Giulietto, la buona del riguardo, no? Va bene, fermate le biate, a me non mi piace. Sei tutto impassato, sei qualcuno. punti senza rompere tutto Martin Club. Siamo 7.075 e dopo ci spostiamo a 140. va benissimo, va bene. Franco, riprendi? Sì, capo, io riprendo e mollo, che devo uscire. Vabbè, dai, buon proseguo con tutto, tanti auguroni se non ci sentiamo, che fino a domani non penso. Ciao, auguroni a te, Massimilia, a Claudio, ci ascoltiamo tra le prossimine. Divertitevi, buon proseguo di serata. Positivo, ciao Franco, dai, mi ha fatto piacere questo questo, dai. Ci sentiamo, buon divertimento, tanti auguroni se non ci sentiamo più tardi, sicuro di no. Ma comunque domani un po' io la radio la accendo per vedere se c'è qualcuno. Ok, dai. Buona serata e di nuovo buon divertimento, buon corretti, ci sentiamo alle prossime. Ciao da te. Ciao Faccia. Ciao Faccia. Alle prossime ne va alle 10 se non c'è il motore sino qua. Venga, facciamo ciao. Uccisci, le dice e maledice a lavorare mia figlia di Duenda. Eravamo invitati da produttore, se no non ci andiamo. Andiamo domani, domani a pranzo. Oggi a casa è già tutto pronto, ma insomma, mettiamo a fare l'agnello anche noi, ma integriamo. Ci prepariamo tutto il baravà, ma recupera tutto i suoi sefi. E basta. E poi a una certa ora metto in gioco buono perché domani mattina devo alzarmi presto. È vero che tu lavori. Però noi siamo lì a casa Riccoso, diciamo di, come cavolo si chiama, di Gabino. E comunque vi posso ascoltare, non so se ci posso parlare, però vi posso ascoltare a 433-500 se ci siete. Non so se posso parlare, ma che lui c'è un portatino che fa quelle frequenze. Si può parlare di qua, cosa più niente sai? Ma chi dice di sì, chi dice di no, cosa vuol dire? Io so che quella è una frequenza secondaria, quindi sicuramente si può parlare. Normalmente si può parlare, poi non so. Così hanno detto, così ti sto dicendo, Massimilia, quella per noi è una frequenza secondaria, quindi se entra uno che lo usa come l'EPD, si potrebbe parlare, capito? Si potrebbe parlare, solo adesso non so che cosa hanno cambiato, quale legge hanno adottato, le sono cambiate un po' di normative, capito? Noi abbiamo una petizione per aumentare anche le frequenze, stiamo firmando tutti i radioamatori d'Italia, io infatti... Mi è arrivata l'email, l'ho firmata e l'ho girata ad altri radioattori. Quindi bisogna fare questa petizione per poter allungarci un po' le frequenze, perché ci stanno chiudendo in una morsa. Abbiamo necessità di allungare più le bande, capito? Arrivare sino a 7500, arrivare sino a 14 e rotti, insomma, siamo troppo chiusi, sono troppo chiuse le bande, bisogna allungare un po', e quindi stiamo firmando tutti i radioamatori d'Italia per quelli iscritti nelle varie sezioni, anche quelli no, basta che dimostrino che abbiano i documenti in regola, perché siamo troppo chiusi, le frequenze sono troppo basse, capito? Bisogna ampliarle. Sì, sì, ho capito, ho capito. Vabbè, ascolta, io lo faccio una cosa. Se vi sento e non me la butti nulla, tanto con un portatilino non disturberà nessuno. Se vi sento, entro e vi saluto, la buio. Se si può fare da, non si può fare da, si raddonca, tutto lì. Tanto per dire ciao, buonasera, come state, no, non penso che sia un reato. Tutto lì. Sin a Giugano, eh. Perché tanto lui ha quel portatile che fa quelle frequenze, poi fa qualcos'altro, ma non più di tanto. Vabbè, io sono sempre a 430, 150 sul ponte, ci sto andando poco lì in diretta in OCF. Non rimane più, quando siamo in qualsiasi locale allora si riesce a sentirci un pochino così. Ma diversamente no, non ci sto bazzicando molto, capito? Tutto qua. problema, ci accetta così. Va bene, Clarco, va benissimo, auguria. Infatti io probabilmente sempre avrei più usato quello, tanto ce l'hai davanti. C'è gli strumenti che tu sei mezzo geco e vedi bene gli strumenti. Tanto ci ha abbinato un bel microfono, va bene, Clarco, cosa ti devo dire? Segnale 9:15, va benissimo. Ah, liscio, liscio, ma sei fatto. Non c'è un record, però me l'hanno fatto a Torrice che è troppo rimbombante. E allora non ne ho messo, capito? No, c'è l'unico, è solo questo adesso. Qua basta, anche perché non sfigura, insomma. E lì, anche se un barrasone. Adesso vediamo quando ho finito l'altro pezzo Giulio, se entra questa sotto o se la devo mettere sopra, non so. Mo vediamo. Comunque. Da qualche parte la metteremo, dai. Non sarà un problema. Va bene. Tutto qui. Aspetta un secondo, crack, te l'ho suonato. Ho controllato anche l'agnello. Altri 5 minuti l'ho fatto, va. Allora, ho fatto mezzo agnello al forno e poi c'è giù nel barbecue c'è il coso, c'è mezzo maiale tornando con giù arrosto, no? Con lo, come si chiama il coso elettrico giù arrosto, come ti vogliamo? Il giro arrosto è andato già, no, il giro arrosto, già va bene. No, noi lo stiamo facendo in tegame perché il forno, se non si secca troppo, siamo solo noi, capito? Io il mio è ventilato il forno, capito? E poi non è che lo faccio cucinare alle griglie di seccarlo, perché lo puoi fare, l'ho messo sopra, ci ho messo l'aglio e poi sopra adesso per cucinarlo ho messo il mirto, capito? Certo, ma c'è un profumo in tua casa che è fenomenale. Il mirto ci vuole nell'agnello allora, senza mirto una gargata. Ci vuole, non ci stanno problemi. Vabbè, ma quindi devi portare tutto da casa di Calvino, stai preparando lì la roba tua e poi la porti a casa di Calvino. Positivo, perché abbiamo poche parole, l'altra sorella di mia suocera che è rimasta a vedova da poco, da sola a casa, quindi la portano lì. Guarda, la notte di Gonuta poi sarà una serata di grandissima paranoia, comunque. E così là, devo fare mia figlia che era rotolo, ma fino. Mamma mia, vero? Io ma ne sono a padre, poi sicuramente non sarà un video, eh. Io soprattutto così un lutto, preferisco da me. Tutti gli anni lo di mia madre, bello già mandi, cioè sei in campagna, ti divirti, puoi uscire fuori, cazzo, ho imparato, Gavino, ma claro, è un casino, cazzo, poi specialmente nel palazzo di Gavino, che so, cazzo, signori a livelli allucinanti, che tu pensa in settimana, dalle 10 in poi non puoi fare casino, nel senso che non ti puoi neanche sollevare la televisione a livelli più di tanto perché disturbi. Fatelo conto a che livelli sono. Quindi poi tutta la situazione, mamma mia, guarda, lascia pelli, infatti domani gli ho detto, guarda, domani non mi decidi, io domani rimango a casa, infatti domani vengono tutti qua. Ma l'unica, capito, è l'unica, e anche qua non ti credere, a quei livelli, non, oramai nei condomini non si può fare più quello che vuoi, capito. Bisogna adeguarsi, però le vedi, insomma, le vedi un po' le dubbizze. In giornate come quella di oggi, tolleranza, sino dopo mezzanotte va anche bene. Ma finta le vedi, non sei al campo esatto. No, io ho già fatto una cosa del genere, per carità di Dio, no, non ci voglio più. Pariami in Gigi, capito? in silenzio qui e là, la preghiera prima di mangiare, ma ho capito. Ma ho capito, tu comincia la giura che. Oh, fine menina già, lascia perdere, va. E vabbè, vuol dire che quest'anno è andata così, per il prossimo anno. Molto probabilmente io già da marzo cambio casa, non so se fa un momento, forse da marzo cambio casa. Ma lì non ci sei più, vai via da lì. Sì, sì, vado via da qua. Diciamo che sto prendendo una casa parallelo, diciamo, a Walter. Però faccio un coreale. Ah, cappa cappa, quella zona va un po' più avanti. Sempre nella stessa zona, un po' più avanti. Singolo, fare i batti due. Sì, qua, singolo, fare i batti miei. 2500 metri di terra, tutto recintato, pozzo, vigna, mi lascia tutto questo signore, mi lascia tutta l'attrezzatura per il vino, motocoltivatore, motosega, 80 metri quadri di veranda da rifare perché lui l'ha tolta, 100 metri quadri di casa, si possono prelevare altri 100, guarda, tutta una tabuba. Ha ragione, per i fatti miei, cancello, chiudo lucchetto, vicino ci sono altre 3-4 case, non sono isolato, a 100 metri c'è la fermata del tram, passano le fogne, tutto a Maravà. Per i fatti miei. Cappa, cappa, e allora usciva, sì. Troppo. E lì vedi tutto, la parte tua, vedi tutto, Ciccio. No, claro, non vedo niente io qua. Questo lascio, poche parole, porto via solo la cucina io da qua. Porto via la cucina e prenderò una di quelle cucinette, quelle pronte, mi da 700-800 euro lì da Conforama. La pianterò di qua, lascerò un frigo più piccolino, cioè se capita un'occasione magari che un sabato domenica me lo voglio fare qua, me la lascio così com'è, là. Solo la cucina porto via da qua, vabbè, televisori, tutta questa roba qua me la porto via, però momentaneamente lascio così, poi quando sarà un'occasione qua chiudo tutto, recinto tutto e metto in vendita, questo la prendo. Allora, cosa ti fa? Fai un paio di dini di lui, così ti scegli da Giarimo, non te ne fatti a noi. Va bene, cappa a cappa. E lì l'importante è che si possa mettere antenne e tutto, capito? Un bel traliccetto, ciccio. Allora, infatti, siccome siamo già messi d'accordo, su, diciamo, nel piano di su, adesso atterrato, dovrei sollevare due camere e rifare tutto il tetto, capito? Perché adesso atterrato voglio fare una cosa carina, quando sto costruendo farò tutto l'occorrente per mettere antenne, marasulti e mi farò una tazzettina anche piccola, ocla, 3x2, 4x4, adesso vediamo com'è. Mi tocco sopra per i fatti miei, con il radio, il mio piccolo angolino, ci metterò tutto, capito? Adesso vediamo cosa organizzare. Sì, vabbè, da qui ne tocco tutto, no? L'unica cosa che posso lasciare qui è giusto quella campagna piccolina che hai visto tu, mi posso lasciare un baracchinetto con un alimentatore, capita un'occasione, che vengo qua, mi faccio la chiacchierata, ma il resto poi porto tutto giù. Ci vuole una stanza piccola, quello che è, però una stanzetta per riservare tutto quando tu non ci sei, chiudi a chiave, tanto tua moglie non parla, capito? E sei a posto, se no è un casino dopo, se no dopo un casino. Quello che viene, viene, io qua lascio tutto aperto perché insomma, mia figlia è grande, mi ha tutti sì, sì, no, ma io glielo ho già detto a lei che su voglio organizzare una cosa del genere, capito? Anche mi voglio fare tipo un tramicetto qua, hai capito? Perché proprio una piana si vede tutto dove potrebbe essere fatto, ecco, per farti un esempio. Che anzi, ti dirò dove acquisterò io è ancora meglio di Walter, perché proprio tutta la piana si vede perfettamente tutto, Porto Torres, Platamona, Sassari, e infatti volevo fare tipo un tralicetto elettronico, però per portare sull'antenna, capito? No, ho dubbi né nulla, un tralicio con un tralicetto neanche così tanto alto, ma 4-5 metri con più un'antenna che va bene. Sì, sì, no, ma lì è perfetto, qua, sono bari fatti miei, vuole invitare qualcuno, schiaccia il pulsante, si apre il cancello elettrico, entra, si richiude, sono bari fatti miei, non vede nessuno che viene, qua vicino è un casino, già li visto come siamo noi. Appena arriva uno subito guarda l'altro, cosa sta facendo, cosa non sta facendo, no, non mi piace più qua. Finiti i soldi e i tempi. Quarta. Ma poi con tutto rispetto è molto fatta molto bene. Inizia a essere piccola, è meglio farne un po' più grandi, io lo stesso ho fatto quello scelto, Massimiliano. Ma mi è costato un sacco di dinami e tutta patria ce ne ho rimesso, ci ho anche riguadagnato perché è costata la metà, capito? Rispetto al valore mi è costata la metà, ma è perché ho comprato le reti, quindi però ho fatto il passo perché con la passione che ho avuto ero troppo stretta nell'altra, non ci avevo la mia zampa, quella di 84, queste tre. Quindi me ne sono preso una, già lo sai, e ho fatto quello che ho fatto. Però il problema è che mi è costato un sacco di problemi, carri, carretti, sono molto più in basso, insomma, eccetera, eccetera. Senza tutto quello che ho fatto per rimetterla a posto. Però alla fin fine è un risultato buono, capito? È un risultato buono, quindi se riesci a fare questa operazione, farla tranquillamente perché te la trovo solo bene, quando uno c'ha più spazio, c'ha più comodità e poi è staccato dal maravano, capito? Sì, ma quello la sto prendendo qua, e poi questo qua diciamo che mi sta anche lasciando tutto, la verità, tutta la casa arredata, vabbè, Burusi è tutto quanto da lampazzi, ma però e tutto, ci sono da spendere un altro po' di soldini sopra, la verità, là, perché ci sono da rifare, c'è da rifare il bagno, aspetta. C'è da rifare il bagno, c'è da rifare i pavimenti, impianto, modificare, fare. Ci sono da spendere ancora altre 15-20 mila euro sopra, però senza gioia che non c'è più problema, capito? C'è mezza campagna che è di frutteto, l'altra mezza campagna di vigna, e mi sta lasciando tutto, sono una persona tranquilla, là, diciamo, tutto il terreno recintato, tutto pianeggiante, non c'è un filo di pietra nel terreno, è una cosa bella, che vuol dire che mi piace, là, mi piace. E questo mi rimarrà un capitale, capito, là. Quando sarà l'occasione qua prenderò tutto e poi vedrò. E più o meno come ho fatto io, più o meno come ho fatto io a Cilia, alla fine mi ero messo sul capitale giù a Bassavalle. Poteva tenere più a lungo, capito? Perché c'era una all'interno, non aveva mille problemi, primi 3 mesi. secondo. E io. Oh, qua, ci sei? Ci sei, qua. E io. Ho parlato anch'io, bene, ne ho approfittato. Ehi, devo chiudere, va. Oh, Claudio, ci sentiamo, dai, se per caso ci sei, tu là pure, più tardi provo a fare chiamata. 4.30 a 125, mi hai detto. Ma non quello del puntolino per entrare che frequenta Napoliare, 433-500. Vabbè, provo a fare una chiamatina, se ci sei, buono, se no, pazienza, no. Va bene, tanto nel frattempo ti saluto con tanti auguri, se ci sei domani in radio ce ne facciamo sicuri, a te con la familiare, ok, ci sentiamo, là. Grazie di questo piccolo consiglio, però devo lasciare la radio che mi stanno chiamando, là. Ok, buona serata e buon divertimento, ciao Claudio, alla prossima, tanti auguri. Ti ringrazio da parte di loro e ci sentiamo alle prossime. Ciao Claudio, tanto augurone, ciao.